Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait le vin de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage. Oh, un'immagine fissa nella mia retina. Notte, buio. Ho le spalle doloranti perché qualcuno mi ricorda che ho sollevato sulle spalle 36 donne. Ho in mano una scimitarra. Ho delle bottiglie ghiacciate di vino che si chiama Osè. Con la scimitarra taglio il collo delle bottiglie e schizzo tutto il vino, che è un vino spumante, bellissimo, un po' secco, sulle donne sotto che stanno con dei calici. Questa è una visione di totale follia. Eppure questo l'ho vissuto. Questo è qualcosa che appartiene alla mia esperienza. O forse è semplicemente follia. Elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Ci sentiamo dopo un po' di tempo. Sentite che la sigla di Melog è un po' cambiata. È cambiato anche il senso probabilmente di questa trasmissione, o perlomeno il filo rosso, perlomeno quello che sarà l'argomento insistente, quello che sarà il folle insistere su un pensiero. Le tourbillon de la vie. Non ne vorrei parlare tanto oggi, anche perché ne ho parlato a lungo con i più affezionati ascoltatori, che non ho lasciato soltanto un istante, il momento della follia, il momento dello stappo della bottiglia con la scimitarra in mano. Mi fa pensare che in ogni famiglia c'è una madre, un padre che, rinfacciando al coniuge dei comportamenti non allineati con il proprio desiderio, gli dice: ah, nella tua famiglia c'è un germe di follia, infatti ricordo quella tua zia scema, quel tuo nonno matto, quell'altra tua nonna arteriosclerotica, c'è un germe di follia, tu sei pazzo semplicemente, o sei pazza, vale la stessa cosa, perché ha un comportamento non allineato con le aspettative dell'altra persona. Ogni giorno siamo circondati da persone che reputiamo pazzi. Pazzo è il signore che va a una velocità non adeguata alla nostra fretta, guidando davanti a noi con il cappello, vestito da Omarell. È pazza è la signora che vediamo vestita in una certa maniera. È pazzo il negoziante che vuole imporci un certo prodotto. È pazzo è chiunque non sia come noi. Ma il mondo pure ci vede molte volte come tanti pazzi. A me dicono che sono pazzo, che sono folle da un'infinità di tempo, forse da quando ero bambino, e man mano che invecchio tanto più vedo in me individuare da parte degli altri, e lo leggo attraverso sorrisini, attraverso sottintesi, attraverso darsi di gomito, attraverso sguardi di commiserazione, il fatto che individuino in me il germe della follia. 800240024. Ci sono secondo voi dei segni tangibili che esista una pericolo di contagio da parte del germe della follia? In cosa identifichiamo il germe della follia? Come si trasmette il germe della follia? Non siamo pazzi, folli, e perché c'è una sorta di trasmissione genetica della follia? Oppure qualcosa che noi mangiamo, che noi beviamo, l'inquinamento, qualcosa che sta nell'aria, o qualcosa che qualcuno volutamente ha messo nel nostro cibo, nella nostra aria, nelle nostre sostanze vitali, perché ama vedere quale sia il folle esperimento, il mutamento comportamentale di una persona colpita dal germe della follia? Un fenomeno allarmante di follia collettiva si è impadronito del paese francese di Saint-Esprit. Un bambino di 11 anni ha tentato di strangolare la nonna. Un ragazzo ha tentato di affogarsi perché ha detto di sentire la sua pancia mangiata da serpenti. Un altro è saltato dal secondo piano del suo palazzo gridando «Sono un aeroplano». Sono per ora ignote le cause del fenomeno, ma tracce di acido lisergico, una fra le più potenti sostanze psichedeliche conosciute, sono state rinvenute nella farina del pane e delle baguette. Certo è che sono numerosi i paesani colpiti dalla maledizione del pane in questo tranquillo paesino francese e gli effetti non sono ancora finiti. Pont-Saint-Esprit è un paesino della lingua d'oca in cui negli anni 50 ci fu questa sorta di esplosione del germe della follia, inspiegabile. Gli abitanti sembravano tutti impazziti. Io non ho nessuna difficoltà a pensarlo, essendo umbro so esattamente quanto Gubbio sia una città felicemente colpita dallo stigma di questa follia. A parte che ci scherzano gli gubini, fanno fare tre giri intorno alla fontana, danno la patente di matto. Ci sono degli eruditi locali che hanno elaborato delle singolari teorie sulla pazzia di Gubbio. Gubbio è la città dei suicidi. Ogni tanto capita che c'è un tombino che rimane aperto, ci sono le scarpe, il cappello e la persona non c'è più perché si è buttata nel tombino. C'è la storia del campanaro, del campanile di Gubbio, che una volta, seguendo il suono delle sue campane, si è buttato nello sprofondo di fronte appunto con la meravigliosa piazza, dove tirano ancora con la balestra vestiti in costumi medievali. Ci sono questi riduti locali che dicono che la follia di Gubbio deriva probabilmente dal fatto che una volta impastassero il pane con il luppolo, e quindi probabilmente questo può aver dato dei comportamenti singolari, modificato il loro patrimonio genetico. Ricordo c'era un altro signore, non so di professione, mi pare facesse l'avvocato, ma si dilettava di interpretazioni folli. Diceva che siccome hanno trovato l'iridio in delle rocce circostanti la città di Gubbio, l'iridio è la sostanza che avrebbe determinato la scomparsa dei dinosauri, perché i dinosauri impazzite per l'iridio si saranno mangiati tra di loro, e gli egubini hanno queste radiazioni di iridio. Non so quale sia la ragione, ma il fatto è che a Gubbio vengono tutti tacciati come matti. Io, quanto umbro, vengo tacciato come pazzo. 800 24 00 24, sapreste rintracciare dei sintomi di follia anche banali nelle persone che vi stanno attorno? Folle in questo momento è non chiamarmi e non comunicarmi quello che covate dentro. Guardate con sospetto la persona che sta seduta vicino, anche il più tranquillo dei colleghi d'ufficio probabilmente dovete tenete folle per la maniacalità dei suoi gesti, per il suo insistere, per le ritualità che ogni mattina compie quando si siede alla scrivania, e per quelle immaginette che si mette, quelle fotografie, quelle lineare, le penne. Voi dite: quello è pazzo, ha un sintomo di follia, ha un germe di follia. E come è accaduto nel paesino appunto la Lingua d'Oca, in cui tutti hanno diventati matti, e dopo decenni si scoprì, o perlomeno questa è una teoria, ci hanno scritto libri, non me la sentirei di abbracciarla in pieno, che era un esperimento della CIA che aveva messo l'LSD nelle baguette di questi tranquilli paesani francesi, quindi saranno impazziti e sognavano i serpenti che mangiavano loro le viscere. In un discount l'uomo ha acquistato una confezione di latticini. Dopo aver mangiato la prima mozzarella, ha riposto l'altra nel frigorifero, ma il giorno dopo l'ha ritrovata immersa in un liquido azzurro diventato blu dopo 3 giorni. Una coppia di pensionati è ricoverata in prognosi riservata per avvelenamento da funghi. Due si sono sentiti male appunto dopo aver mangiato funghi che avevano raccolto nelle campagne di Contrada Bellia dove abitano. Probabilmente hanno ingerito l'amanita falloide, un tipo di fungo particolarmente velenoso. La coppia è stata prima condotta nell'ospedale di Piazza Armerina, successivamente trasportata a Catania. 800 24 00 24, questa mattina siamo alla ricerca del germe della follia. Il germe della follia potrebbe far parte comunque di membri della vostra famiglia, della vostra sfera affettiva, delle vostre conoscenze, o potreste averlo rintracciato semplicemente guardandomi intorno, guardando gli occhi delle persone che vi circondano, vedendo dei sintomi di alienazione nella gente che vi sta attorno. Vi ho dato alcuni spunti presa dalla cronaca di queste ultime settimane, in cui potrebbe esserci qualcosa di simile al paesino della Lingua d'Oca, in cui la CIA avrebbe messo l'LSD nelle baguette, quindi erano tutti impazziti. Magari la famigliola che mangia la manita falloide potrebbe essere il primo portatore del germe della follia. Fabio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Ecco, lei è il primo a averci segnalato probabilmente qualcuno che lei suppone affetto dal germe della follia. Guardi, io stesso lo devo confessare candidamente, senza vergogna, e non so se posso raccontarle la mia esperienza vissuta con i colleghi d'ufficio, visto che ne parlava poc'anzi. Noi dobbiamo fare un'operazione meritoria questa mattina. Non vorrei lanciare degli allarmismi, quindi mi tengo un basso profilo su quelli che sono realmente i sintomi concreti, reali, oggettivi, inoppugnabili, su questo germe della follia. Non voglio anticipare ciò che magari diranno altri colleghi su qualcosa di simile rispetto alla baguette francese, però obiettivamente abbiamo concrete sicurezze sul fatto che esista questo germe della follia. Vediamo se lei riesce a rintracciare qualche sintomo. Ma guardi, nel mio caso è un comportamento, perché io sono da sempre appassionato di ciclismo. I ritmi di lavoro ormai non consentivano più gli allenamenti, per cui tutti i miei colleghi sono sempre stati all'oscuro di questa mia passione, della mia passione delle gare alla domenica, eccetera. A partire da circa un annetto fa ho iniziato a bardarmi completamente in qualsiasi stagione, estate, inverno che fosse, da ciclista professionista completo. Ma lei è cicloturista o ciclista professionista? No, guardi, io faccio, sono architetto, però la domenica mi diletto in quelle tristissime gare amatoriali che sono più competitive probabilmente di un Giro d'Italia. Lei lo sa, adesso non vorrei allargare una piaga già dolorosa, che è il paradiso delle mogli infedeli. La moglie del cicloturista ha un tempo di adulterio molto, molto prevedibile, perché quando parte il marito se ne sta fuori prima che torna, e quando torna è talmente spompato che non può nemmeno fare la prova finestra della verifica tattile e sinestesistica dell'adulterio. Quindi è una situazione già in sé difficoltosa. Vada avanti. Questo è verissimo. Lo so, ognuno ha i suoi problemi. Quindi lei va vestito da ciclista al lavoro? Io arrivo al lavoro vestito da ciclista. Il primo giorno il signor Giovanni, che diciamo all'accettazione dell'edificio dove io entro regolarmente in macchina vestito di tutto punto, ha visto entrare questo strano personaggio. Era anche una giornata invernale, quindi avevo luci alogene che lampeggiavano sulla testa, fanalini eccetera, e si è rivolto in maniera abbastanza colorita nel dirmi: ma lei che cosa vuole? Ecco, non era proprio che cosa vuole, era un'espressione. Comunque nelle policy aziendali del suo datore di lavoro non c'è nessuna controindicazione, quindi nessuno può censurarle il fatto di andare con la maglietta rosa, i pantaloni attillati e le scarpine da ciclista. Assolutamente no, anzi direi che favorevolmente ai comportamenti cosiddetti salutistici l'accettano di buon grado, però si sono dovuti abituare. Ma lei si è domandato se questo dipende da qualcosa che lei ha mangiato, bevuto, respirato? No, penso che sia un gene, perché sin da piccolino ho avuto questo grossissimo problema. Benissimo, abbiamo il primo volontario ascoltatore che ha dichiarato che in realtà lui il germe della follia lo vive con coraggio, con determinazione, con orgoglio, anche la sua malattia, se vogliamo così chiamarla, la sua patologia. Vediamo, ci sono altre persone. Luigi. Ciao. Anche lei ha comportamenti folli? No, comportamenti folli no, però io mi ricordo una persona sincera, solo secondo gli altri io sarei pazzo. Cioè io non so, mi raccontano quello che faccio nel weekend, io racconto tutto filo per segno quello che faccio con la mia ragazza, proprio senza nessun problema. E vedo gli altri che diventano rossi. Cioè io sto parlando con una persona qui, con i colleghi di lavoro. Cioè le cose zozze intime che fa con la ragazza le racconta tutti? Sì, ma senza nessun problema. Oppure sto parlando con una persona, con un gruppo, che c'è uno che a me non mi è simpatico, e io glielo dico in faccia, cioè guarda che tu non mi sei simpatico, è inutile che tu vieni qui a parlare con me. Ma lei si è consultato, scusi Luigi, rispetto al suo problema, si è consultato con la sua ragazza dicendo: guarda, a me fa bene la salute raccontare quello che abbiamo fatto, posso farlo? Sì. E lei è d'accordo? Certo. Sì, lei non ha nessun problema, perché ha visto in me la persona che, certo, anzi, loro non conoscono la mia ragazza, non la conoscono, forse sarà anche per quello che non ho a che fare con la gente che ho sul lavoro, con i miei amici. Io vado con sta ragazza, faccio quello che voglio e poi lo racconto così. Sì, ma perché, scusi, dopo la terza volta non può essere un po' monotono, a meno che lei abbia una fantasia nella sua follia? Ma vedo che a volte sono anche loro che me lo chiedono. Beh, grazie. Però, lei crede le aspettative, le capisce? Quando torna il lunedì diranno: oggi che hai fatto? Sì, certo. Io ho fatto un mio weekend sul lago di Iseo. Come sono arrivato al bar, allora come va? Come è andata di qui, di là? Guardi, esiste una serie di persone che non sono pazze, sono perfettamente normali, che spendono gran parte dei loro miseri stipendi con dei numeri telefonici 144 via dicendo per farsi raccontare le maialate. Lei gliele racconta gratuitamente al bar, quindi vedo che in fondo lei da pazzo svolge una operazione di sussidio sociale, di supporto alle carenze affettive e mnemoriche dei suoi compaesani, quindi in fondo la sua follia fa bene agli altri. È stato uno scambio culturale tra, diciamo, la parte di Gheddafi che ci ha spiegato un po' il Corano, ha chiesto sia se l'avevamo letto, no? E lui sostiene che, cioè, noi dobbiamo credere a Maometto perché Gesù non c'è. È una persona alla mano, giovanile come noi. Comunque è stato molto interessante e istruttivo. Cosa hai imparato? Nel senso, io rimango comunque della mia religione cattolica, però ha dato molti dettagli della religione islamica che comunque io ad esempio non conoscevo. Per circa un anno ha nascosto il corpo della prozia all'interno di un congelatore, continuando nel frattempo ad incassare la cospicua pensione di reversibilità della donna. L'anziana signora, conosciuta da tutti nel palazzo, da tempo non si vedeva più in giro, e quando qualcuno dei vicini chiedeva notizie a questo pronipote, che nel frattempo continuava a frequentare la casa, l'uomo offriva la sua versione dei fatti, non sempre coincidenti. 800 24 0024. Vi aiuto a trovare dei germi della follia che molte volte sono soffocati in comportamenti che non reputiamo più come eterodossi rispetto poi non so nemmeno a quale modello. Le Gheddafine, le signorine islamizzate a cachet che giravano a chiappe di fuori con il Corano sotto braccio e che dichiaravano, pur sapendo tutti, faccia parte il loro lecito lavoro di hostess, di entrenés, non so bene che, di fare quello che richiede il committente, che loro si fossero convertite. Su questo comunque abbiamo scritto tantissimo, su questo ci siamo interrogati, ma anche l'apertura al metafisico, quanto la cronaca del metafisico in sé assume dei tratti di follia, le grandi apparizioni, le grandi visioni, le dirette sulle stigmate. Beh, anche questo, se lo consideriamo razionalmente, sono comportamenti folli, ma perfettamente metabolizzati. Quindi tutti abbiamo mangiato la baguette allucinogena e tutti, anche il signore che tiene la zia surgelata per prendersi la pensione, in sé probabilmente fa parte della nostra genia di affetti dal germe di follia. Beppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io ho tenuto silenziosamente, anche se visibilmente percepibile perché tossiva, Beppe Neri accanto a me, perché mi serve una persona che mi aiuti. Il pazzo a un certo punto, quando prende coscienza della propria follia, sa di essere affetto dal germe della follia, se vuole in qualche maniera riavvicinarsi al mondo dei savi, si rivolge a un neuropsichiatra. Beppe Neri, amico nostro, è vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, e vediamo alla luce dei dati che abbiamo messo sul piatto questa mattina quanto sia possibile che in realtà qualcuno di noi stia mangiando qualcosa di simile alla baguette allucinogena. Beh, sulla baguette allucinogena è molto interessante pensare che all'epoca la dietilamide dell'acido lisergico derivato dalla sedazione di cornuta, cioè l'LSD, era un farmaco registrato che esisteva in commercio per una multinazionale svizzera che ancora esiste e che è uno dei leader di mercato, e che poi venne ritirato per questi effetti indesiderati, ma era un farmaco molto potente, a tal punto che è evidente quello che viene raccontato, perché poi è la storia della hippie generation in America che era convinta sotto l'effetto dell'LSD di poter volare e si lanciavano dalle finestre, ma è evidente anche e molto meno conosciuto che in quegli anni negli ospedali psichiatrici in Europa si usava l'LSD, e ci sono dei lavori scientifici ancora consultabili, per cercare di risvegliare dal profondo torpore che noi chiamiamo catatonia dei pazienti psicotici cronici. Quindi l'efficacia è fuori di discussione. Questo è un aspetto. Non so se la CIA davvero abbia avuto tempo e voglia di andare a rompere le scatole a De Gaulle mettendo l'LSD nel pane in lingua d'oca, ma questo è verosimile. Ma fa parte di una subletteratura di cui non sa bene poi l'aspetto reale, concreto, quello leggendario. Ci piace sapere comunque che esista un rapporto diretto fra una sostanza iniettabile, un germe, qualcosa, è la follia collettiva. Ma guarda che ci sono delle cose molto più vicine a noi, perché voglio dire, se fossimo in Messico basterebbe pensare al fungo del mezcal e la mescalina, ma noi a Roma e in altre parti d'Italia tutti gli anni vediamo dei casi di persone che tornano dalla passeggiata pasquale e che hanno dei gravissimi disturbi del comportamento, pensando di aver raccolto dei ribes o dei lamponi. In realtà hanno preso delle bacche di atropa belladonna, che è un farmaco potente, l'atropina deriva proprio da quello, che ha anche dei disturbi comportamentali gravi, quindi fa parte dell'esperienza concreta, non è nulla di straordinario questo, parlando dell'assunzione di sostanze specifiche. Renato, una battuta, poi diamo la linea alle informazioni della borsa. Buongiorno, sono Renato Pascheriello. Sì. Ebbene, per esempio, appoggiare la lotta pacifica dei lavoratori, dei pastori sardi per non perdere il lavoro, non fare opere faraoniche e dare agli operai il giusto compenso, promuovere la ricerca, la scuola, insomma tutto quello che fa bene alla collettività. Questo fa parte della sua terapia, ecco, dice questa cosa. No, io so benissimo, non so, davvero, volevo solo dire cosa è bene, ecco, cosa io ritengo che sia bene, io so una bellezza, la saluto, buongiorno. Bene, benissimo, abbiamo dato occasione a uno dei signori, probabilmente hanno... fanno parte di questa nostra grande famiglia dei folli, di dare la possibilità di fare il suo esercizio quotidiano di dichiarazione di normalità. Quando il folle si dichiara normale, il folle ha un momento di pausa dalla condanna indelebile a questo segno che appunto lo contraddistingue come matto, e quindi abbiamo fatto anche noi un'opera meritoria, quindi diamo la linea alle informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Maglietta bianca, salopette color sabbia, all star nera, immancabile ciuffo ribelle. Si aggira nel negozio Pretty Pregnant alla ricerca di abiti che si adattino alle nuove forme. Gianna Nannini è incinta. All'età di 54 anni, la cantante rock più apprezzata in Italia sta per diventare mamma. Il noto cantautore Antonello Venditti ha svelato di avere visto un UFO in un parco a Roma. Saranno state le 11. Non eravamo ancora nel cuore del parco. Io e mia madre in quel momento eravamo soli. L'oggetto, un disco di almeno 10 metri, si è manifestato dondolante sospeso nell'aria. Nella parte inferiore c'erano tre appendici a forma di ventosa, mentre in alto, dove era visibile una cupoletta che assomigliava a un grande bitorzolo, si notava un oblò. Rimase lì a lungo e dopo un po' liberò dei filamenti bianchi, parevano manna. Non lo dimenticherò mai. 800240024, il germe della follia lo troviamo ovunque, lo troviamo anche in quelli che sono i profeti del nostro immaginario, i grandi cantautori. Gianna Nannini, madre e padre allo stesso tempo, quasi sessantenne di questo bambino, e Venditti che vede l'UFO, rivela aver visto un UFO a Roma con i filamenti bianchi, un UFO che emana manna, quindi c'è una sorta di contaminazione fra la memoria religiosa tradizionale e l'avveniristico senso degli alieni che vengono da altri mondi. Sono tutti germi di follia, probabilmente. Cosa hanno ingerito, cosa hanno mangiato, cosa hanno respirato queste persone? Qual è la maniera per cui ci contaminiamo del germe della follia che ha contaminato chi parla in questo momento, ma forse da prima ancora che nascesse? È una serie di persone che ci telefonano, come Francesco. Buongiorno Francesco. Buongiorno Nicoletti. Lei ha una spiegazione forse? Ma io non lo so, io non so se sono folle io, folle tanti miei amici o soprattutto folle mia moglie. Succede sempre questo: noi andiamo al centro commerciale, mia moglie è una persona che non spende mai una lira in vestiti, non interessa assolutamente nulla di spendere, non è la classica donna spendacciona. Ma cosa ci va a fare al centro commerciale se non spende? Andiamo a fare la spesa così, però cosa succede? Ma siete umarelle voi? L'età media qual è? Per solito l'umarelle va al centro commerciale, gira, si bea, si contamina con la merce ma non compra nulla. No, invece noi compriamo. Ah. Compriamo come dei folli, ma quando usciamo abbiamo comprato cose inutili, completamente inutili. Mi faccia degli esempi. Esempio, entriamo, compriamo delle scatole per il gatto senza avere il gatto, per esempio. Oppure compriamo oggetti che già abbiamo a casa, il cavatappi, piuttosto che queste cose. E quando usciamo ci rendiamo conto di aver fatto una grossa stupidaggine. E quale potrebbe essere la ragione? Io mi sento malissimo, nel senso non male fisicamente, ma ho delle sensazioni molto strane, per cui, e non solo io, anche molti miei amici, per cui sono convintissimo, ma straconvinto, che ci spruzzino qualche cosa in quei condizionatori nei centri commerciali. Ah, quindi una sostanza allucinogena, sì, che istighi, che incrementi il piacere dell'acquisto? Sì, io penso proprio di sì, perché è molto strana questa cosa. Io sono una persona razionalissima, mia e moglie... Quanto dura l'effetto, diciamo? Dopo quanto tempo si trova la normalità, diciamo, con il braccino corto, come è giusto che sia? Una mezz'oretta dopo che si esce dal supermercato. E avete dei sensi di colpa terribili, naturalmente? No, assolutamente no, ce la ridiamo, insomma. Con una persona che si ubriaca, si concede carnalmente, poi si sveglia e dice, cosa mai fa? A volte non sappiamo che fare, non capita spesso, però diciamo, andiamo al centro commerciale, però lo facciamo per subire questa... Ma avete mai provato a protestare, cioè andare dal direttore e dire, cosa mi hai fatto respirare? No, nel modo più assoluto, anche perché credo che sia una cosa, cioè rendendosene conto, credo che sia anche una cosa bella, come dice lei, è come ubriacarsi. Vabbè, andatevi a farvi una bella pista di supermercato quando vi sentite giù, molto meglio che sostanze deleterie. Respirate la merce, e se questo vi fa sentire felice. Io non so se respiriamo la merce, a proposito di pane con l'LSD, non lo so, onestamente non lo so. Però vedo che questa cosa non è che poi crea dei problemi, in fondo siete contenti, cioè è uno strappo alla regola, certamente. È come quelli che si bevono un bicchierino in più la sera per stare allegri, voi ve ne andate lì, vi respirate la sostanza allucinogena della merce e tornate con i cavatappi, però siete con una botta di vita, finalmente vi godete la vita, sennò cosa tenete a fare i soldi quando sarete morti, che ci fate? Quindi li spendete. Okay. Bene Francesco, buongiorno. Giuliana, un altro sintomo probabilmente deriva da alcune sostanze con cui è intrisa la carta di alcuni libri. Cosa fa lei, Giuliana? Io in genere quando compro i libri e poi li leggo, a meno che non siano meravigliosi, ma man mano che leggo una pagina la strappo e la butto via. Alla fine mi ritrovo con niente. Insomma. Rimane solo l'ultima di copertina? No, la copertina la levo per prima, perché... ma scusa, non c'ha la quarta di copertina dove c'è scritto qualcosa sull'autore, così? No, ma io me la leggo l'autore, leggo la vita dell'autore, il riassunto, poi lo butto via. Poi tra l'altro ogni tanto mi perdo i personaggi, perché se sono gialli già non mi ricordo più chi era. Ma a parte quello, mano a mano mi dà un piacere enorme nel buttare via la pagina che leggo. Così alla fine non ho più niente. A meno che non sia un libro bellissimo, che allora dico no. Quindi lei si disfa praticamente della sostanza dell'immaginario, o per noi del supporto che le fornisce immaginario, così ne prende le distanze. Può darsi, non so. O forse per avere tutto sotto controllo, nel senso che io me lo sono letto più o meno e... fatto mio, basta, non ho cose, non ho appendici. Ma se lei facesse lo stesso con gli uomini, farebbe come la mantide religiosa, cioè comincia a mangiarseli dalla punta dei piedi, quando arriva a metà è finito. Beh, adesso insomma può darsi da giovane, non è detto. Faceva cose del genere? Ma sì, qualcosa. No, andiamo nei particolari. No. A parte ci conosciamo su Facebook. Sì, ho messo, non riveliamo. Marelles mi ha detto che io sono diventata matta, che credevo che era una parola latina, figuriamoci, a sapere cosa voleva dire. No, l'ha inventata Maso Masotti, un signore bolognese che analizza questa classe. L'ho trovato. Vabbè, adesso come lei, dopo si vada a strappare qualche pagina, così si tranquillizza un po'. Grazie Giuliana. Beppe Neri. Beppe Neri, vicepresidente Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Cominciamo ad analizzare i casi di follia. Di follia lo dico con grande rispetto, ponendo me per primo in questa lunga catena di persone affette dal germe della follia, che abbiamo però sentito. No, ma è un'epidemia da cui siamo tutti affetti. Io penso che il primo signore, quello supermercato, avesse perfettamente ragione nella descrivere gli eventi. Forse l'interpretazione può essere lasciata un pochino più aperta, nel senso che dagli anni 50, soprattutto negli Stati Uniti, è stata elaborata con estremo rigore una strategia di marketing che consente di collocare, posizionare, porre in evidenza tutti gli articoli negli scaffali dei supermercati in maniera tale da interagire a livello subliminale sulle opzioni, sulle scelte del potenziale compratore, arrivando fino a in qualche modo influenzare in maniera importante il comportamento di acquisto e alla fine all'uscita il paziente, ecco, c'è la contaminazione, perché chi dice che nell'aria del condizionatore c'è qualcosa di particolare induce in chi valuta le cose questa scelta lessicale inappropriata. L'acquirente si ritrova delle cose che non voleva prendere. Ma è patologico pensare che ci possano essere delle sostanze che modificano i nostri comportamenti. Che esistano queste sostanze che possano modificarlo è una realtà. Che esista la possibilità che vengano diffuse fa parte di un capitolo molto ampio. Ci sono persone che non prendono una certa linea aerea perché sono convinti che i filtri dell'aria condizionata di quella linea aerea siano impregnati di qualcosa che perlomeno stordisce o intontisce ed evita che qualcuno abbia dei problemi di aggressività verso il personale di cabina. Ci sono quelli che ritengono che, ancora una volta, siccome c'è stata la malattia dei legionari e bisogna cambiare periodicamente i filtri dell'aria condizionata, le ditte che forniscono i filtri dell'aria condizionata forniscono dei filtri differenziati a seconda delle varie situazioni, perché ci sono quelli che vanno tenuti buoni e quelli che invece vanno stimolati. Sono un po' delle leggende metropolitane. Ma tu pensi, la peste manzoniana, ricordi le disquisizioni sull'unto della peste, come arrivava la peste? Abbiamo sempre pensato questo, che ci sono delle volontà oscure che modifichino le nostre percezioni per ammorbarci. Quello che dice te dei supermercati è un po' come le luci psichedeliche una volta nelle discoteche, c'è una modificazione della coscienza perché il colpo d'occhio cambia la tua volontà. E d'altro canto invece sarei stato curiosissimo di capire com'è la casa e quali sono le procedure di igiene personale, parlando come ci si lava le mani, della signora che leva tutti i fogli, perché questa necessità di controllo e di eliminazione di qualsiasi interferenza mediante la distruzione fisica di alcuni supporti cartacei come quelli della narrazione fa pensare che ci sia una necessità di controllo un po' più estesa, un po' più pervasiva, un po' più profonda. E qui cosa potrebbe fare? Potrebbe essere una persona che ha una casa pulitissima e con molti strumenti che garantiscono un'igiene personale e un'ingente ambientale assoluta, per esempio con tutti quei dispenser che adesso sono diventati di moda, di quei gel disinfettanti. Anch'io giro con la mucchina. Beh, infatti tu sei stato già catalogato nell'ambito delle persone che vengono prese in carico da tutte le strutture che seguono queste situazioni. Non c'è Chiara, problema. Velocemente, Chiara ha... Allora, intervengo per dire che i libri hanno una funzione sociale di droga, legale. Sì. Si evade, si va in mondi diversi, lontani, inoltre satura una nostra valenza di curiosità che abbiamo sempre. E questo è un male? E questo è un male? No, perché è un male? No, lo domando, è una domanda. No, per niente, anzi. Sono strumenti di evasione, ma siamo pieni di supporti di evasione, guardi, non soltanto i libri, anche guardare un telefilm, anche ascoltare la radio. Certamente. E dov'è la follia in questo? Negarselo. Beh, la follia è che se leggiamo certi libri e ci caliamo dentro, perdiamo anche il senso talvolta della realtà. Noi cosa facciamo? Possiamo scendere alla fermata dell'autobus di Berza o del treno? Perché siamo molto coinvolti. Beh, non è bene perdere ogni tanto il freno sul proprio controllo della realtà. Certo, perché è comunque un in modo sano. Ma lei non è matta per niente, scusi, perché ha telefonato? Che sono un po' matta. E inoltre il mio lavoro è a contatto, proprio sono una psicoterapeuta con persone che escono di fuori anche senza bisogno delle sostanze. Beh, per fortuna, per sua fortuna ci sono, sennò lei cosa farebbe, scusi? Infatti, ha ragione. Va bene, sono d'accordo. Una signora a cui i matti danno il pane. Grazie, buongiorno signora. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Quello è il direttore? Sì, è lui. Gli vorrei parlare, posso? Certo. Rick, c'è un cliente che vuole parlare con te. Sì, dica. Salve, vorrei fare colazione. A quest'ora non serviamo più colazioni. Rick, io sono certo che lei ha sentito dire che il cliente ha sempre ragione. Non è la nostra politica. Lei può avere solo quello che è nel menù dei pranzi. Io voglio la colazione. Non lo voglio il pranzo. Abbia pazienza. Mi dispiace tanto. Ah, sì? E dispiace tanto anche a me. Ah! Ehi, calmi. State calmi laggiù. Ehi. Mangiate tutti con calma, non è successo niente. Coraggio. Mangiate calmi e tranquilli. Avete tutti bisogno di vitamine A, B, C. Beh, Michael Douglas nel giorno di ordinaria follia è uno degli esempi da manuale di come poi può esplodere il germe della follia. Ma è lui veramente il folle, questo sistema che lo circonda, che lo immobilizza, perde il lavoro, perde la famiglia, non può vedere i figli perché il giudice fa un'ordinanza, non può vedere i figli, va a mangiare in un fast food, chiede la colazione, siccome è scattato da un attimo l'orario in cui servono soltanto il pranzo, non ha diritto alla colazione, poi prende la mitraglietta, comincia a sparare in un'escalation di follia. 800 24 00 24, stiamo cercando come rientro di Melog. Già vedo molte notizie su Facebook, su quelli che ascoltano la sigla e veramente loro la commentano. Voglio lasciare sospeso il giudizio, la spiegazione e l'analisi del tourbillon della vie. Ve lo dirò quanto prima, anzi sarà una sorta di trasmissione dedicata. Voi pensate che il vortice terrificante della vita che va e prende, lascia, affascina, ci rende spaventati, ci atterrisce e ci sublima, è uno dei fili rossi che seguirà la trasmissione in questa stagione. Dicevo, questa mattina parliamo del germe della follia. Parliamo con un neuropsichiatra che è Beppe Neri e che sta cercando di contestualizzare, di dare comunque una spiegazione alle telefonate dei tanti che ci chiamano e ci segnalano quelle potrebbero essere le scaturigini della follia. Molto forte l'idea di ciò che si respira, l'aria condizionata dei supermercati. Altre signore poi pongono la follia anche ad altre circostanze, altre motivazioni. Beppe. No, è molto importante evitare che passi il concetto veramente di qualcosa di totalmente che viene dal di fuori, come diciamo noi, di esogeno, perché sennò torneremmo indietro di 60-70 anni, quando, adesso ci fa un po' sorridere, c'era la teoria dello schizococco, così come esiste lo pneumococco, l'enterococco o anche per la nostra cute lo stafilococco. Allora, questa idea di qualcosa che viene da fuori e che pervade, riempie il nostro spirito e lo perturba completamente, va valutata con molta cautela e con molta prudenza, anche perché poi, andando sul piano della realtà concreta della vita quotidiana con i pazienti, situazioni invece che noi chiamiamo endogene e che si riferiscono alla costituzione personale dell'individuo e sotto alcuni profili e per patologie specifiche molto definite e limitate al suo assetto genetico, riconducono a qualcosa che invece di esogeno, di proveniente dall'esterno, ha poco. Nella realtà concreta, ripeto, poi questi due fattori, il mondo in cui viviamo, le relazioni che costruiamo, le persone con cui interagiamo e la nostra costituzione di personalità individuale, interagiscono e da questo poi scaturisce il nostro porsi in relazione all'interno o al di fuori di quelle regole condivise, quelle specie di normalità che la società e la cultura ci hanno dato, che ci fanno apparire in un certo momento sani o malati. Ecco, adesso ti faccio una domanda, Beppe, molto personale, da amico. Ma quanto corrisponde quello che la maturità porta a considerare come una volontaria, felice abbandono, abbassamento della soglia del pudore. Uno a un certo punto dice: ma che me ne importa, non c'ho più niente da perdere, non devo dimostrare più niente, abbasso la soglia del pudore e sono come veramente vorrei essere. Qualcuno va in giro con la mitraglietta e spara nei supermercati e nei pub, e qualcun altro semplicemente dice quello che pensa, fa le cose che gli va di fare, io vado a sollevare le donne sulle spalle, atto di follia. Ecco, questa è follia veramente, o semplicemente è il comportamento auspicabile? Uno questa cosa dovrebbe farla all'inizio della propria vita sociale. Io penso che farlo all'inizio dal punto di vista proprio anagrafico e di percorso di esistenza sia non facile. Penso che tutti quelli che come te e me abbiano superato la cinquantina anelino a un comportamento liberatorio, e le relazioni che tessono con il mondo circostante consentono loro di dar vita a questo comportamento liberatorio con modalità diverse. Ma prendono per primi sintomi di solito la società, gli amici, coloro che ancora stanno dall'altra parte, primi sintomi indelebili di demenza senile. Ti dicono: ma stai già rincoglionendoti. Dipende dal quoziente intellettivo e dall'attività corticale dei tuoi amici. I tuoi amici migliori e più intelligenti capiscono che sei sempre tu e che ne hai un po' piene le scatole. Alessio, buongiorno. Ciao, sono Alessio, telefono da Rimini. Benissimo. Detto questo? Io gestisco un locale, perciò di follie ne vedo veramente tante nel mio settore. Ma quella proprio più, secondo me, assurda in assoluto è... mi chiedono il tovagliolo da mettere sotto al sedere quando si mettono a sede sulla sedia. Ah, vogliono una sorta di filtro fra loro e la sedia, o ha messo al sedere un'altra filtro persona? Tra loro e la sedia, è una cosa veramente assurda. Ti ripeto, ne vedo tantissime io, perché avendo un locale pubblico di follie ne vedo tante. La cosa più assurda ancora è mettersi a sede, prendere l'ordine e dopo 5 minuti girare la testa di continuo, come mai non arriva la roba dopo 5 minuti. Però volevo fare una domanda, che è un professore, giusto? Certo, sì. Un illustre cattedratico, sì, Beppe Neri. Chiedo scusa, ma non mi ricordavo il nome. Le foglie più grosse come mai le vedo solamente per le donne? Ah, le dice: le donne sono pazze. Beppe, risponde no, a questo signore. No, allora, prima pazze. Di tutto, non sono illustre cattedratico, guai a confondere i ruoli. Secondo, non possiamo accettare questa discriminazione, perché non è vero. Le donne lo danno a vedere in maniera più esplicita, perché hanno imparato a relazionarsi in maniera molto più visibile. Il tovagliolo sulla sedia? Il tovagliolo sulla sedia è rupofobia, è paura di contaminazione. Da quando c'è stata l'aviaria e l'influenza H1N1, a parte il boom dei gel, non per altri usi ma per l'igiene personale, questa idea che tutto sia contaminato è contaminabile, che quindi possa contaminare me, è diffusa, per cui le mani, qualsiasi parte del corpo, vanno protette e tutelate. In quel caso forse c'è anche proprio paura che ci sia una sorta di incontinenza generalizzata, per cui uno quando si alza la sedia lascia traccia. Beh, uno potrebbe anche dire, se si tratta di una ragazza, che può far riferimento alla integrità dell'abbigliamento delle persone che si sono poi sedute prima di lei. Ecco, Marco, chiudiamo con Marco. Buongiorno. Sulle sostanze diffuse nei supermercati. Sì, qui è un posso confermare limitatamente un certo uso, una pratica abbastanza diffusa negli Stati Uniti. Ah, ma lei l'ha visto fare? Notizia certa o è una leggenda? Sì, notizia certa da operatore del settore, ma non è una cosa particolarmente... E cosa ci si mette? Come si chiama? Misteriosa. Allora, sicuramente non sostanze inserite nei condizionatori per stimolare l'acquisto di cavatappio, no, cassette del gatto, sarebbe abbastanza improponibile, però che nei supermercati statunitensi, e forse si cominci anche nei nostri, a liberare sostanze che sono, diciamo, fragranze propedeutiche all'acquisto. Profumo, per esempio, di pane appena sfornato. Aroma di pane fresco, pane sformato, che effettivamente è propedeutico all'acquisto di prodotti alimentari in generale, e pane in particolare, è una pratica oltreoceano abbastanza diffusa. Da Benissimo. Noi non so se è già iniziata, però è, io dico, limitatamente alle sostanze alimentari è accertato, acclarato che una sorta di seduzione olfattiva per invitare a acquistare, però questo forse poco a che fare con la follia, perché stamattina abbiamo soltanto lambito quello che è il germe della follia, ma avremo modo di darne ampia prova e dimostrazione nelle settimane che seguiranno. Grazie Beppe Neri, grazie a chi ha chiamato, grazie a Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, per la prima volta alla console di Melog 2.0, e la parola a Jean Moreau. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.